Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci viene più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, sono Pierino Marazzani e quello del calendario anticlericale e di altri libri ateo anticlericali pubblicati soprattutto dalle edizioni La Fiaccola e da RM Edizioni di Viterbo. In questa nostra breve trasmissione anticlericale ci occupiamo delle disgrazie clericali, cioè la Chiesa vuole darci a bere che pregando, andando ai pellegrinaggi, eccetera, avremo chissà quali benefici per la nostra salute fisica e spirituale. In realtà gli stessi preti e frati sono vittime di terribili incidenti. Nella mia ormai grossa collezione di disgrazie clericali ho questa qui del 1965, una rarità. Sei frati morirono in provincia di Torino in un colpo solo in un incidente stradale. Anche i loro fautori democristiani ebbero tantissime disgrazie. Per esempio il presidente della regione Puglia, Salvatore Fitto, muore nell'auto in fiamme, quindi ha fatto la fine di Giordano Bruno, insomma, nel 1988. Alla sagra, rimanendo in Puglia, alla sagra di San Nicola di Bari, stavano andando questi quattro fedeli e morirono tutte e quattro in un incidente stradale. Terribile tragedia del fanatismo religioso a Catania durante la grande festa di Sant'Agata. Invece di avere un miracolo, una persona che aveva solo 22 anni è morta proprio nella ressa dovuta al fanatismo religioso di questi cattolici. Le suore nel 1993, una suora morì ustionata nel suo convento perché stava facendo i raggi uva. Un'altra suora cade e muore sulla Grigna, vicino a Lecco, nel 2001. Tragedia clericale in Piemonte, a Mergozzo. La madre del parroco di Mergozzo morì in un terribile incidente stradale nella A26 nel 2015. Nelle Grand Jorasses, questo famoso massiccio alpino, precipitarono ben quattro sacerdoti in un colpo solo. Ad Alatri, in Calabria, questo parroco di solo 42 anni, che era un grande sportivo, è morto in un incidente stradale, si è schiantato. E Don Stefano, prete di Verona, anche lui aveva solo 27 anni, e si è schiantato, è morto in un terribile incidente stradale. Non c'è pietà, insomma, gli angeli custodi sono sempre in ferie. Crolla il ponteggio sulla facciata della cattedrale di Caserta. L'incidente sul lavoro, uno pensa che lavoro in chiesa, sarò sicuro perché il santo mi protegge, eccetera. Non è vero. Questi poveri due operai stanno lavorando sulla facciata della cattedrale, sono precipitati e morti sul colpo. Anche a Cortina d'Ampezzo, chi è stato sa che c'è un enorme campanile per fare la manutenzione del quale occorrono proprio delle guide alpine che vanno fino in cima. Ovviamente cosa è successo? Che la guida alpina si è schiantata ed è morta sul colpo a solo 43 anni. Uno scoppio. Crolla la canonica in Lombardia, vicino a Lecco. Morta la perpetua. Un sacrestano, i sacrestani sono in chiesa tutto il giorno, avranno dei benefici per la loro salute, no? E invece no, nel 2018... questo sacrestano friulano di Porto Gruaro era stato folgorato mentre cambiava una lampadina in chiesa, morto sul colpo. A Mairano, in provincia di Brescia, il sacrestano è morto morto per un incidente mentre andava in chiesa. Padre Vito Gloppelli investito e ucciso da un'auto. E a Offanengo, in provincia, mi sembra, di Cremona. Quest'altro drammatico incidente nel Vibonese, siamo in Calabria, morto sacerdote, l'auto è finita contro un palo e il prete è morto sul colpo. In Puglia, pullman fuori strada, feriti 8 devoti di San Pio, anche qui ci sono moltissime disgrazie accadute ai pellegrini che andavano da Padre Pio. e Don Rino Buraglio nel 2005 sparì nel nulla e dopo 3 anni hanno trovato i suoi poveri resti in fondo a un burrone vicino ai piani Derna sopra Lecco. Bene, saluti a tutti alla prossima puntata con i misfatti e le disgrazie clericali da Pierino Marazzani. Grazie e saluti a tutti.